uscito nel 1952, e poi anche altri lavori, come per esempio una voluminosa biografia di Karl Renner und seine Zeit, che è uscito nel 1965. Libri di Hanak sono certamente, dal punto, l'ho detto proprio oggi al professor Manacorda, che hanno avuto un po' una severa critica, giusta critica certamente, ma d'altra parte, appunto Hanak non è uno storico non era uno storico di carriera, una critica negli studi storici dove gli è stato rilevato alcuni sbagli, per esempio la mancata differenziazione fra il socialismo trentino e quello triestino, per esempio, in quanto riguarda la posizione verso l'impero plurinazionale, eccetera. Cioè, dunque, fino agli anni 50, anni 60, prevalentemente una storiografia agiografica, come ho detto. È stato in un certo senso il merito dell'attuale cancelliere, dell'allora giovane sottosegretario agli esteri Bruno Kreisky, che verso la fine degli anni 50 ha cercato di inviare una impresa di studi sulla storia del movimento operaio. Era proprio nel 57-58, mi ha chiesto me di fare questo lavoro, perché voleva proprio uno che non fosse del suo partito. Io, per ragioni personali, ho dovuto declinarlo, ma gli ho segnalato Rudolf Neck, che adesso il direttore del Verwaltungsarchiv e il vice direttore generale degli archivi, che ha fondato una Arbeitsgemeinschaft, che ha pubblicato una serie di monografie ed ha anche organizzato, perché Neck ha una grande capacità organizzativa, quegli convegni quegli internazionali Tagungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, che ogni anno si tengono a Linz. Uno dei primi si è tenuto a Vienna, c'era anche lei, si ricorda nel relatore sul 60, socialismo triestino. lei ha parlato Ero relatore sul socialismo triestino triestino. nel 64, in occasione del centenario della fondazione della prima internazionale, e adesso ogni anno questi incontri in settembre sono a Linz, dove, data la posizione dell'Austria neutrale, c'è anche la possibilità che ci sono dei convegni dove prendono parte sia storici dell'Est che dell'Ovest, perfino delle due Germanie, che sono state parecchie volte lì a quei congressi. Questa Arbeitsgemeinschaft ha anche pubblicato una serie di monografie e di documenti, per esempio due volumi del Neck stesso, sulla Arbeiterschaft und Staat im Ersten Weltkrieg, che sono stati pubblicati nel 64, rispettivamente nel 64 e nel 68. Poi, un anno prima di questo, ancora il primo volume era quello di Hans Mommsen, professore a Bochum in Germania, pronipote del famoso Theodor Mommsen, di Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage im Habsburgischen Völkerstaat, Vienna 1963, poi vari altri libri, per esempio di quel già nominato Herbert Steiner sui fratelli Scheu, o un tesi che è stato fatto da un mio allievo di Colonia, Klaus-Jürgen Mirsch, Die Arbeiterpresse der Jahre 1869 bis 1889 als Kampfmittel der österreichischen Sozialdemokratie, e anche, per esempio, il lavoro di un giovane storico, allievo del mio amico e collega Jedlicka, Hans Hauptmann, Die Anfänge der linksradikalen Bewegung und der Kommunistischen Partei Deutsch-Österreichs 1916 bis 1919, Wien 1970, che poi è stato rielaborato e uscito l'anno dopo col titolo un po' più, diciamo, come si potrebbe dire, più drammatico, di Verlorene Räte, Republik am Beispiel der Kommunistischen Partei Deutsch-Österreichs, Vienna 1971. A queste pubblicazioni si aggiunge poi il fatto che alla fine degli anni 60 è tornato in Austria Karl R. Stadler, che ha avuto la cattedra, un austriaco che è emigrato dopo il 34 in Inghilterra e che è stato chiamato in patria e ha avuto una cattedra a Linz, all'Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte, all'Università di Linz, e poi è stato anche diventato direttore del Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung. Lui ha fatto parecchie pubblicazioni sulla storia del movimento operaio e negli ultimi anni è stato fondato dal nostro Ministero di Scienza e Ricerca, für Wissenschaft und Forschung, dalla Ministressa Firnberg, un Projektteam für Geschichte der Arbeiterbewegung, cioè un gruppo di lavoro, di progetto per la storia del movimento, per coordinare le diverse ricerche sulla storia del movimento operaio, che adesso, dopo certe difficoltà, adesso ha una segretaria molto in gamba, la dottoressa Maimann, una allieva del collega Sturz dell'Università di Vienna, che anche ha cominciato con la pubblicazione di un foglio, come si dice, ciclostilato, informationsblatt. Di questa scuola di Linz è anche uscito quel piccolo libro di due autori, Hans Hautmann e Rudolf Kropf, Die österreichische Arbeiterbewegung vom Vormärz bis 1945, sozialökonomische Ursprünge ihrer Ideologie und Politik, dove c'è anche del resto una esauriente bibliografia. Questo libro è interessante perché è il primo tentativo, si può dire, di applicare i principi del materialismo storico alla propria storiografia del movimento socialista e operaio, mentre, come ho detto, la prima fase agiografica è stata molto personalistica, cioè una agiografia dei capi, delle personalità più importanti. Questo libro certamente ha anche delle lacune, come un primo tentativo. Per esempio, naturalmente sono di nuovo due autori, cioè un autore di storia politica ideologica, quel Hans Hautmann, che piuttosto anche dalle sue tendenze è molto diciamo all'estrema sinistra dello schieramento socialista o socialdemocratico, anzi lui è di fede piuttosto comunista, mentre l'altro collaboratore è uno storico di storia economica. E allora queste due parti, uno di storia del partito e l'altra della storia dello sviluppo economico nello stesso periodo, non sono completamente fuse e congiunte, come è del resto anche molto difficile. Questo libro non è una unità, chiaramente, come sarebbe forse se ci fosse un autore unico. La mia relazione qui certamente non potrà adesso fornire questo libro, sostituire un libro che non esiste. Io so benissimo che io sono non capace di fornire qui una descrizione completa e unitaria della storia del movimento socialista e operaio in Austria, ma però cercherò di far almeno con certe poche osservazioni di entrare di diversi fattori, perché per la storia della socialdemocrazia austriaca certamente è necessario considerare la storia del partito, cioè la storia anche dei suoi capi, delle sue idee, ma anche i fattori economici, il problema delle nazionalità che ha avuto tanta parte in un impero plurinazionale, anche, diciamo, fattori, se si vuole, psicologici, sia di psicologia individuale che di psicologia di massa, sociologici, perfino se si vuole psicoanalitici, se si pensa per esempio al rapporto fra Viktor Adler e suo figlio Friedrich Adler, che ha avuto tanta importanza per la storia anche del movimento socialista. Poi per esempio tutto il problema di cui oggi ha già accennato l'amico Variani stamattina, che nel mondo germanico e specialmente a Vienna, tutto il problema della posizione della questione ebraica, degli ebrei assimilati, della loro posizione nella società, poi naturalmente tutta la politica interna ed esterna dell'Austria. Cominciamo dopo questa breve introduzione, tanto per dimostrare i problemi, partiamo dal fatto, e questo credo che sia necessario, dal fatto che l'Austria nel periodo, cioè l'Austria-Ungheria, nel periodo fino al 18, cioè nell'ultimo periodo della sua vita, dal 48 dal 1848 al 1918, è prevalentemente e più della Germania, certamente uno stato di società agraria. Io faccio girare qui il primo volume della nostra grande opera collettiva della nostra Accademia delle Scienze sulla monarchia asburgica dal 48 al 18 e prego di osservare le tre carte che danno un'idea della distribuzione dell'industria. Lo faccio poi girare, ma voi vedrete già adesso qui da questa carta, sia da questa qua che delle altre due, che infatti è una zona molto limitata dove l'industrializzazione avviene in quei periodi. Per esempio questo è del 1869 e qui c'è l'altra delle diverse industrie che è del adesso qui non c'è scritto, ah sì, sono le maggiori industrie poi c'è quello del 1907. Ci sono appunto tre carte e si vede da tutte queste tre carte che in fondo sono poche regioni dove è concentrata tutta la industrializzazione austriaca, cioè da una parte una striscia al nord della Boemia e della Moravia e poi Vienna e dintorni, cioè i sobborghi di Vienna, il Vorstädte di Vienna e la zona fra Vienna e Wiener Neustadt, cioè a sud di Vienna, in quella pianura, e dopo con l'importanza dell'acqua come portatore di energia, c'è l'industria che va nelle valli delle Prealpi e poi naturalmente, dato i giacimenti di ferro nella Stiria, das Obersteirische Industrierevier, Erzberg, Leoben, Donawitz, eccetera, e poi per l'industria tessile il Vorarlberg. Questo in fondo, diciamo, sono le regioni, le limitate regioni della industrializzazione della industrializzazione austriaca. Mentre, come ho detto, la maggior parte del territorio e la maggior parte della popolazione ancora fino alla fine della monarchia, vive nelle zone agrarie e popolazione agraria. Dunque una lentissima industrializzazione cominciata, si può dire, in stile, veramente, se si parla di industrializzazione, cominciata dopo le guerre napoleoniche, con la spinta degli Asburgo-Lorena. La dinastia aveva una importantissima parte, grandi interessi, in Lorena avevano grandissimi interessi nella industrializzazione, ed è interessante, questo è interessante anche per il movimento operaio, perché sia gli industriali che i primi capi, i primi personalità vengono dall'Ovest, e in parte anche dall'Inghilterra. Gli industriali sono o dalla Renania o dalla Scozia, dall'Inghilterra, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera. Una gran parte di questi industriali che vengono in Austria sono protestanti, che in quel periodo hanno una specie di sono privilegiati o tolleriert, e hanno perciò una posizione molto diversa dalla borghesia industriale nell'ovest della Germania o nella Francia, eccetera, che è, diciamo, anche politicamente evoluta, ha un certo senso di autonomia, mentre questi chiamati in Austria con privilegio, con tolleranza speciale, che sono un po' stranieri, almeno nelle prime generazioni, non hanno mai sviluppato una coscienza, propria coscienza politica. Questo è anche importante. A questi elementi che vengono dal ovest industriali si aggiungono poi un gruppo che è anche molto importante, anche importante per la storia del movimento operaio, che sono gli imprenditori di origine tedesco-ebraica della Boemia e della Moravia, industriali, commercianti, banchieri, che hanno una grande importanza, specialmente gli ebrei della Boemia e della Moravia, che hanno da fare con la situazione nazionale, tendono verso il nazionalismo tedesco. E questi gruppi, da questi ceti, per esempio, sia il fondatore, del vero fondatore del movimento socialista, Viktor Adler, che è poi la mente più brillante del austromarxismo fra le due guerre, Otto Bauer, che è figlio di un industriale della Boemia, perfino al nostro attuale cancelliere Kreisky, provengono da questo ambiente, sono i figli ribelli di questi ricchi industriali commercianti di origine tedesco-ebraica della Boemia e della Moravia, con, come ho detto, di una certa tendenza verso il nazionalismo germanico. E la stessa, molto simile, e poi il fatto, se guardiamo i primi leaders del movimento socialista nel Vormärz, nel periodo prima del 48, sono gente dall'Ovest che viene in Austria e che ci sta per poco tempo. Fra il 34 e il 36 c'è il famoso Wilhelm Weitling, il precursore, il frühsozialist, che si trattiene a Vienna e che trova anche qui certi suoi seguaci, almeno risulta questo dai rapporti di polizia. Nello stesso anno 36 c'è Robert Owen a Vienna, che viene a Vienna a contatti qui, per esempio, col mio amico Karl Möhring, col amico storiografico, con un ufficiale austriaco di origine di parte prussiana, figlio di uno di questi industriali prussiani che sono venuto a Vienna nel periodo napoleonico, che è diventato un ricco fabbricante, e quel Möhring che per esempio era un ammiratore anche dei lavori di Charles Fourier. Qui si vede anche l'influsso delle idee pre-socialiste, si può dire, o pre-socialiste, non so come voi chiamate, socialismo forse si vuole, prima del... è una brutta parola, vale così. Ad ogni modo, nella rivoluzione del 48, poi per la prima volta, diciamo, il proletariato dei sobborghi di Vienna fa la sua appariscenza come, diciamo, come una forza politica, perché fino al 48 sono considerati solo i poveri ai quali si dà la minestra di Rumford, eccetera, mentre qui per la prima volta appare come una forza, benché senza capi, senza leader, senza tutte le tragiche situazioni del primo capitalismo. In quell'anno si poi avviene di una, si viene di una certa collaborazione fra questi lavoratori che non hanno capi e guide e gli studenti dell'Università di Vienna. Operai e studenti sono veramente gli attivisti della rivoluzione del 48, sia nel marzo ma specialmente poi in maggio, e queste, in maggio, quando gli operai insorgono per la difesa della legione, in difesa della legione accademica, che ha poi come conseguenza la fuga della corte da Vienna ad Innsbruck e come conseguenza l'atteggiamento della borghesia del centro di Vienna, che viveva in gran parte della piccola borghesia, che viveva in gran parte come rifornitori della corte, delle amministrazioni centrali, degli uffici centrali, dell'aristocrazia, eccetera, che diventano antirivoluzionari proprio fra il maggio e l'estate. In estate avviene poi quella cosiddetta Prater Schlacht, la battaglia del Prat, quando i lavoratori che sono stati assunti lì per dare, sull'esempio delle Nationalwerkstätten, sull'esempio francese, per dare lavoro ai disoccupati, sono lì impiegati in lavori per il regolamento del Danubio, hanno poi c'è una diminuzione della paga e loro fanno una dimostrazione e la Guardia Nazionale del centro di Vienna si scaglia molto brutalmente contro di loro, e questa questione dà anche l'occasione, lo spunto per una discussione nel Democratischen Verein, nell'Associazione Democratica di Vienna, dove c'è Karl Marx che subito interpreta questo avvenimento in chiave delle sue idee, diciamo in chiave del manifesto comunista. Dice: non si tratta dei 5 Kreuz in più o in meno per il lavoro delle donne, ma qui c'è la lotta fra la borghesia e il proletariato. Ma ad ogni modo queste due conferenze che lui ha fatto lì nell'Associazione Democratica non hanno avuto un grande successo. Lui poi se ne va e gli operai viennesi insieme con i piccoli borghesi, poi c'è l'ultimo atto tragico della rivoluzione d'ottobre, dal 6 al 31 ottobre. C'è stato già fondato nel giugno da un certo Friedrich Sand un Erster Wiener Allgemeiner Arbeiterverein e un giornale Arbeiterzeitung, che ha avuto solo 6 numeri, di tendenza tedesco nazionalista, come tutta la rivoluzione del 48, perché gli operai e gli studenti combattono sotto la bandiera nero, rosso, giallo, o nero, rosso, oro, l'attuale bandiera delle due Germanie, o anche della Repubblica di Weimar, e quella tradizione rimane molto forte poi nel, diciamo, nei ceti popolari in Austria. Qui c'è un certo parallelismo al mazzinismo in Italia, questa tradizione della rivoluzione del 48, dei caduti della rivoluzione di marzo e di quella di ottobre, il mito del deputato della sinistra di Francoforte, Robert Blum, che viene a Vienna, combatte qui, viene poi fucilato anche in sfida al Parlamento di Francoforte. Questo mito della rivoluzione del 48 poi ha una grande importanza anche nella storia della socialdemocrazia austriaca, fino oltre alla fine della Prima Guerra Mondiale. Poi si è spenta, si può dire, dopo nel periodo, questa tradizione, questo mito, ancora i canti su Robert Blum, eccetera, che erano ancora molto vivi nella mia gioventù, adesso quasi completamente dimenticato, perché intanto ci sono stati altri problemi. C'è anche i vecchi socialdemocratici, come appunto Jacques Hanna, che quelli della sua generazione, Oscar Pollack, ancora conoscevano tutti a memoria tutte le poesie di Friedrich Graf, per esempio, tutto quella mitologia, diciamo, socialista del 48 era ancora viva, specialmente naturalmente la poesia su Vienna, wenn wir noch knien könnten, wir legen auf den Knien, wenn wir noch beten könnten, wir beteten für Wien. Se potessimo ancora inginocchiarci, noi staremmo prostrati sulle nostre ginocchia, se potessimo ancora pregare, noi pregheremo per Vienna, questo è di Freilich Rath. Poi questo mito della rivoluzione del 48 sopravvive naturalmente nel periodo del neoassolutismo, c'è l'aria della cospirazione, ci sono i fatti di Milano del 53, poi l'attentato a Francesco Giuseppe del sarto ungherese Libeni, e in quel periodo progredisce la industrializzazione molto forte nel periodo del neoassolutismo, perché il governo stesso, il governo di Schwarzenberg e poi quello di Bach e Bruck e dei suoi successori, vuole guadagnarsi la simpatia dei ceti della borghesia, che è stata spaventata, si può dire, fra le braccia della corte e dei ceti conservatori dalle esperienze della rivoluzione del 48, sia nel campo sociale sia nel campo nazionalistico, quella disgregazione dell'impero plurinazionale. E in quel periodo, che è anche il periodo dell'abbattimento delle mura di Vienna, cioè i sobborghi di Vienna, che erano, diciamo, la parte più importante della industrializzazione e del proletariato, vengono amalgamate alla città, con tutte le difficoltà. Per esempio, la grande Ringstrasse, che voi conoscete, è stata anche fatta in certo senso sui consigli dell'esercito, di una certa larghezza, con due caserme da l'una e dall'altra parte per far attaccare la cavalleria, per avere una protezione per la Hofburg e per il centro della città contro una futura sommossa popolare. In quel periodo, fino agli anni 60, vengono gli agitatori, si può dire, dalla Germania dell'Est, ci sono appunto i vari Scheu, Most, Pabst, Oberwinder, quasi tutti vengono dalla Germania e che cominciano a organizzare. Abbiamo qui nello stesso periodo l'interessamento della Chiesa, dei circoli cattolici, per la questione sociale. C'è il Kolping, il movimento di Kolping, dei degli artigiani cattolici, che tutto quello ha i suoi riflessi anche nell'Austria, e naturalmente anche la discussione fra Schulze-Delitzsch da una parte e la Salle dall'altra parte, quelli che sono per le organizzazioni autonome, Selbsthilfe contro Staatshilfe. C'è ancora su una casa a Vienna, nella Lindengasse, per esempio, sul portone, un enorme busto di gesto di Schulze-Delitzsch, che nessuno, diciamo, di quelli che passano probabilmente sa chi era, ma questi Selbsthilfe, cioè l'organizzazione del come si chiama? Di mutuo soccorso, che sarebbero cooperative, le cooperative, la parola cooperativa non mi veniva in questo momento, grazie. Però di un vero movimento operaio socialista si può parlare solo poi nel periodo liberale, nell'era liberale, dopo le sconfitte del 59 e 66, cioè dopo il 67. Dal 67 al 79 la brevissima era liberale austriaca, specialmente la liberale legge delle associazioni, il Vereinsgesetz, dà la possibilità di fondare veramente legali organizzazioni operaie. Prima, e proprio nei sobborghi di Vienna, a Gumpendorf, che vicino alla Maria-Hilfer-Straße, quelli che conoscono Vienna, è un Arbeiterbildungsverein che viene fondato con l'aiuto dei liberali, perché non è vero che i liberali sempre erano, diciamo, sordi alla questione sociale. Beh, in quel periodo avevano veramente anche un interesse a promuovere l'organizzazione dei lavoratori. C'è ancora un certo ricordo della situazione del 48-49. Questo Arbeiterbildungsverein, il cui principio, la cui tendenza era, diciamo, la cultura dei lavoratori, l'insegnamento, poi questi Arbeiterbildungsverein nascono dappertutto e prendono molto presto un significato anche politico. È uno delle mete, a parte la situazione, il miglioramento economico, e dal punto di vista politico l'allargamento del voto, l'allargamento del suffragio, l'allargamento del suffragio, e diciamo con l'idea della abolizione finale del suffragio a censo, del censo, e avviene così che nel dicembre del 1869, quando si apre una nuova sessione della Camera, del Reichsrat a Vienna, avviene una grandissima dimostrazione, la prima dimostrazione dei lavoratori, con 120.000 lavoratori sfilano davanti al Parlamento su quella piazza dove c'è adesso il Palazzo Comunale, che era allora il Paradeplatz, e una delegazione di 10 di loro, di 10 delegati, viene ricevuto dal primo ministro Taffe, il conte Taffe, che in quel periodo per momento è primo ministro di un governo liberale. Loro domandano il diritto di coalizione, un più largo diritto di associazione e di adunanze, la completa libertà di stampa e il suffragio universale. E infatti il giorno dopo il ministro liberale di giustizia Herbst, che è uno dei capi della Verfassungspartei, cioè del liberalismo tedesco, dei tedeschi dell'Austria, sottomette al Parlamento un progetto di legge sul diritto, sul coalitionsrecht, sul diritto di coalizioni, di coalizione, che riceve la sanzione dell'imperatore nell'aprile del 60. Però il 69 dà poi al governo e specialmente a quegli elementi della borghesia, diciamo imprenditoriale, che sono avversi alle rivendicazioni degli operai, l'occasione di un intervento. Oberwinde e Heinrich Oberwinde e suo rivale Andreas Scheu erano stati al congresso di Eisenach. E poi è stato dichiarato che il programma di Eisenach era il programma anche per i lavoratori austriaci, e questo dà l'occasione di arrestare i capi, di sciogliere le associazioni e di fare un processo di alto tradimento contro Oberwinde, Scheu, Pabst, Most e tutti quanti nel 70. Un processo che finisce con la condanna a parecchi anni, 5 a 6 anni, dei principali imputati. Questi però non rimangono molto tempo nel carcere, perché il nuovo governo, quello del febbraio 71, il governo conservatore, antiliberale, il governo del conte Honvart e del professore di economia Albert Schäffle, che era uno di quelli catena socialisti e che voleva guadagnarsi altrettanto come i capi, gli aristocratici conservatori, le simpatie degli lavoratori come alleati contro la borghesia liberale, proclama un'amnistia e quelle associazioni, le associazioni sciolte, vengono rifondate. E questo è un periodo, il periodo dal 66 al 73. Sono, come li ha chiamato Heinrich Benedict, giustamente dall'esempio biblico, i sieben fetten Jahre della economia. È un enorme boom, una grande congiuntura economica dal 67 al 73. Nell'Austria, che ormai adesso dopo il 66 liberato da tutti i pesi della politica germanica e della politica italiana, dal peso di mantenere per esempio un esercito sempre pronto a combattere nel Veneto, eccetera, ed è un periodo di una grande espansione economica troppo forte, che porta poi nel 73 al grande crash, la grande crash della borsa di Vienna il 9 maggio, il venerdì nero, che è stato, si può dire, il colpo, il più grave colpo che la ideologia del liberalismo classico di Manchester abbia avuto in Austria, e che ha continuato, si può dire, fino ai nostri giorni il suo effetto. Perché viene distrutto il mito che il libero gioco delle economiche porta alla continua crescita del comune benessere, e in Austria, e qui è proprio quello che lei ha prima detto, che c'è un filo che collega Giuseppe II e Pietro Leopoldo alla situazione dell'Ottocento, perché si risveglia in Austria l'idea che lo Stato ha il compito e il dovere di proteggere i ceti che sono economicamente più deboli. Questo appunto si riferisce all'opera dell'assolutismo illuminato, perché all'opera per esempio sotto Maria Teresa e Giuseppe II in favore dei contadini, eccetera. Cosa sono questi ceti più deboli? Sono i contadini politicamente liberati nel 48, ma economicamente in una situazione forse in molti casi peggiore di prima, sono i piccoli artigiani e commercianti che soffrono sotto dall'espansione dell'industria, anche credito, dipendenza dalle banche, cioè che tutti quelli che in una economia capitalistica devono vivere e lavorare senza avere capitale, cioè i contadini non hanno capitale, i piccoli commercianti e artigiani non hanno capitali e naturalmente il proletariato, il crescente proletariato, i lavoratori dell'industria e anche una parte della aristocrazia terriera che si aggiusta a questa nuova situazione, a questi nuovi mercati che sono aperti, alla nuova situazione di mercato che sono stati creati con la costruzione delle ferrovie, per esempio, la distruzione dei locati locali, dei mercati locali attraverso la importazione di agraria dall'Ungheria, dai paesi con una struttura più favorevole e anche con un terreno migliore o poi da oltreoceano, eccetera. Dunque, anche una parte dell'aristocrazia si trova in difficoltà e nel suo sentimento antiliberale cerca l'alleanza si interessa della questione sociale, lì c'entra naturalmente poi tutte le idee della riforma sociale cattolica che hanno una parte in questa aristocrazia anticapitalistica, antiliberale, fino a un certo punto anche antisemita. Questa cosiddette social aristocratiche, che è un'aristocrazia internazionale, ma specialmente forte in Austria, che nel periodo fra il 1879 e il 1893, nella lunga era del Conte Taaffe, promuove la legislazione sociale, che in una certa parte è più progressiva anche di quella di Bismarck, in altre segue le tracce di Bismarck, è più progressiva in quanto si decide anche a limitare le ore di lavoro, quello che Bismarck non voleva mai fare, e segue le tracce, l'esempio bismarckiano in quanto a assicurazione di invalidità, vecchiaia, malattia, eccetera. Allora, tanto è vero che Victor Adler poi una volta disse che, credo che era al congresso dei socialisti a Bruxelles nel 91, dice che Österreich besitze neben England und der Schweiz das beste Arbeiterschutzgesetz der Welt. Allora Victor Adler, unificatore, è vero, fondatore del movimento socialista, ha riconosciuto anche questo. Un anno dopo il grande, adesso ritorniamo un momento indietro, scusate, un anno dopo il grande crash del 73, nel aprile del 74 avviene la fondazione formale del partito austriaco come partito internazionalista di tutte le nazionalità dell'Austria, avviene in una trattoria a Neudorf, che è un villaggio, un po' la Grinzing si può dire di Wiener Neustadt, che ha c'è una doppia ragione perché fu scelto questo Neudorf, da un lato perché c'era molto nelle contro e dall'altra parte quel Neudorf è una quasi si può dire una non enclave completamente, ma è un punto dove la frontiera dell'Ungheria va molto vicino a Wiener Neustadt, e Neudorf era in Ungheria, adesso è nel Burgenland, cioè nella Ungheria occidentale, e diciamo la polizia nei comitati ungheresi era meno era più di larga manica che non la polizia nella parte austriaca, cioè Cisleitania della monarchia. Così avviene qui la fondazione appunto di un partito per tutta l'Austria, per tutte le sue nazionalità, ma questa unificazione ha poco tempo, perché nascono subito, rimane per poco tempo, perché nascono subito le rivalità fra i capi, specialmente fra Scheu e Oberwind, che viene finalmente tratto, ci sono dei processi fra di loro, e finiscono che tutti e due, Scheu va in Inghilterra, Oberwind va in Germania, dove poi è diventato un agente della polizia, della politica di Bismarck. In quel periodo, poi nel periodo degli anni 80-83, in quel periodo delle lotte interne che durano molto a lungo, durano quasi più di 15 anni, c'è un forte influsso anarchico in Austria, che è un influsso che viene parte dall'est, che sono quelle tradizioni di cui ho parlato del periodo del neoassolutismo, la cospirazione, eccetera. Dall'altra parte c'è l'idea che bisogna subito abbattere il sistema esigente con l'azione rivoluzionaria individuale, spontanea. C'è specialmente uno di questi capi, Johann Moss, che è andato in Inghilterra, che pubblica lì un giornale, la Freiheit, che è molto sanguinaria. Si può dire che vuole incitare a uccidere poliziotti, capitalisti, eccetera. E infatti avvengono anche queste uccisioni, un fabbricante viene ucciso insieme con i suoi figli, ci sono due attentati contro agenti di polizia. E è interessante, viene poi una durissima repressione, che per esempio di uno di questi anarchici che fu condannato a morte, al suo funerale poi è andato per protesta il principe Alois Liechtenstein, che poi diventerà uno dei capi del movimento cristiano sociale. Ad ogni modo c'è queste lotte intestine, lotte fra che portano anche a una forte repressione. Ci sono infatti i radicali e i moderati. I moderati che vogliono migliorare la posizione degli operai dentro all'esistente sistema, con lotte di sindacaliste, eccetera, anche in una certa collaborazione con la legislazione di Taafe. E gli altri radicali, appunto, che vogliono abbattere tutto il sistema con azioni individuali. Questo antagonismo poi viene risolto da una personalità, e qui c'entra senz'altro qui una grande personalità che ha avuto un ruolo determinante, che è Dr. Viktor Adler, nato nel 52, figlio di un ricchissimo, di un miliardario, un commerciante ebraico che è venuto da Praga a Vienna. Adler, nato nel 52, cioè di una generazione per cui il mito della rivoluzione del 48 non ha più, è solo un ricordo letterario. Invece il grande avvenimento che per lui è importante, come per tutta la sua generazione, è la guerra francese prussiana, con un grande entusiasmo di Adler e tutti quelli della sua generazione per la Prussia, per Bismarck, atteggiamenti anti-asburgici, eccetera. Qui troviamo per esempio in quella stessa linea per esempio Theodor Herzl, futuro fondatore dello zionismo, sì, anche il giovane Freud, il giovane Mahler, il giovane Meinong, il filosofo, eccetera. Sono tutti, diciamo, ammiratori della Prussia, più tollerante in questione di religione e progredita, eccetera. Viktor Adler, che era andato nel Schottengymnasium di Vienna, dove ha fatto un'amicizia per tutta la vita, con l'unico di questo gruppo, si può dire, di origine sociale bassa che Engelbert Pernersdorf, figlio di un sarto che ha anche fatto il ginnasio a Vienna, e sia Adler che Pernersdorf sono appartengono a quel gruppo che in un primo tempo negli anni 70 e poi specialmente anche ai primi del 80 e sotto l'influsso del grande demagogo Georg von Schönerer. Georg von Schönerer, un radicale ex liberale che promuove appunto la politica della protezione di questi ceti deboli, e loro, Viktor Adler e Pernersdorf, collaborano al programma di Linz, del Linz Programm del 1882, dove appunto, a parte il nazionalismo tedesco, anti-slavi, eccetera, si domanda più protezione per i contadini, per i piccoli artigiani e per i lavoratori. Adler è portato a questa questione sociale anche dal fatto che lui è diventato medico dei poveri a Vienna, nei sobborghi, appunto nella Bergkasse, e quando lui smetterà la sua pratica viene assunta dal suo amico Sigmund Freud, che è famoso, che adesso il museo di Sigmund Freud. Lui è il medico dei poveri, e si può dire che per lui la movente principale è l'atteggiamento umanitario. C'è il famoso detto: bisogna voler bene alla gente, man muss die Leute gern haben. Questo è quello che lui insegnava a tutto il gruppo. Lui, nonostante la sua tarda ortodossia marxista, lui in fondo è principalmente un socialista umanitario. Lui si era negli anni, quando era avvenuta la separazione da Schönerer, che Schönerer si è dedicato, come voi sapete, all'antisemitismo razziale, poi alla fanatica ammirazione di Hohenzollern e prussiane. Quando avviene la separazione da Schönerer, e quando Adler si decide di smettere la sua attività, di lasciare la sua attività di medico, appunto lascia la sua pratica a Sigmund Freud, allora lui cerca di diventare un ispettore, Gewerbeinspektor, un ispettore di fabbrica, come erano istituite appunto da quella legislazione di Tafe. In quel periodo ha anche contatti con Vogelsang, col grande teorico della riforma sociale cattolica. Sono stati pubblicati solo dopo la Seconda Guerra Mondiale uno scambio di lettere fra Vogelsang e Adler, dove almeno pare che ci sia una reciproca stima. Poi fa il famoso grande viaggio in Germania, in Svizzera e in Inghilterra, dove raccomandazione del vecchio Leo Frank, di quel ungherese che era stato rivoluzionario ungherese, che era stato anche membro del governo della Commune a Parigi. Lui poi prende il contatto con Karl Kautsky, di origine di Praga, anche di origine austriaca, che sta a Stoccarda, e con Friedrich Engels a Londra, e avviene la sua conversione, si può dire, al marxismo, ed è poi una grande amicizia con Kautsky, con Engels, ma anche con Bebel e Liebknecht. Si può dire che Adler, che era un uomo deve essere stato un uomo molto simpatico e pieno di calore umano, è stato un genio dell'amicizia, ha avuto molte, molte amicizie, molte scambio di lettere, specialmente con Bebel, con Liebknecht, ma anche amico di Ede Bernstein. Lui era amico veramente di tutti, era un amico personale di tutti i capi della Seconda Internazionale. È solo nel 1886 che lui entra nel partito, e questo è anche un fatto interessante e curioso. Lui entra nel partito soltanto dopo la morte del padre, perché non voleva fare al padre questo dispiacere di entrare in un partito rivoluzionario mentre il padre era ancora in vita. Si troverà questo forte legame affettivo al padre, poi anche fra Friedrich Adler e Victor Adler, benché con tutti i problemi anche di una specie di contestazione e guerra delle generazioni. Anche lì c'è una posizione, una opposizione contro il padre miliardario, ma nello stesso tempo non volergli far del male. Questo a me sembra molto tipico per lui. Lui allora entra nel partito, fonda un giornale di Goethe e diventa il grande mediatore. E questo si può dire Adler è stato per tutta la sua vita, il mediatore, quello che in Austria diciamo der Beschwichtigungshofrat, cioè il consigliere aulico che cerca di dar ragione all'uno e dar ragione all'altro. Lui per tutta la sua vita ha cercato di essere il mediatore fra i compagni francesi e quei tedeschi nella internazionale, fra i compagni delle varie nazionalità dell'Austria nella cosiddetta piccola internazionale che era il partito socialdemocratico in Austria, fra polacchi e tedeschi e polacchi e ruteni, fra italiani e sloveni e tedeschi e italiani eccetera. Lui cerca sempre di calmare, come un suo amico ha scritto di kleine Mordekünste, anche lì facendo dei compromessi. È un grande genio del compromesso, si può dire, e in tutti e due i casi, sia nella grande internazionale per impedire la guerra o per cercare di un atteggiamento comune di fronte alla guerra imminente, sia nella piccola internazionale austriaca, lui in fondo è naufragato alla fine, è solo riuscito nel tentativo di fare un compromesso fra i radicali e i moderati. Qui in questo campo lì è la cosa dove lui è riuscito. Se io lo chiamo un Beschwichtigungshofrat, seguo, non dico niente di originale, perché lui stesso in una lettera si è autodefinito den Hofrat der Revolution, il consigliere aulico della rivoluzione. Lui sapeva che era così. Questo poteva essere solo rabbioso se qualcuno gli disturbava questo mestiere di mediazione, come per esempio contro Rosa Luxemburg, che lui una volta rabbiosamente in una lettera chiama eine doctrinaire Gans, perché lei giustamente si era scagliata contro delle posizioni nazionalistiche dei socialisti polacchi, che naturalmente per combattere, diciamo, per la concorrenza del nazionalismo dei nazionaldemocratici polacchi, loro avevano adottato una mozione per la rinascita del regno di Polonia, cioè della Polonia, dello Stato di Polonia, e Rosa Luxemburg ha detto che questo è un nazionalismo borghese e lo ha condannato, e lui era furioso, ha detto adesso es war schon Gras über die Sache gewachsen und dann kommt diese doctrinaire Gans und frisst das Gras wieder weg. Lui appunto era rabbioso, ma diciamo dal punto di vista ideologico certamente aveva ragione Rosa Luxemburg, ma dal punto di vista umano, politico, certamente aveva ragione Adler. E riesce veramente in pochi anni di riunire il partito e nello stesso tempo di espellere, si può dire, l'influsso anarchico, anche aiutato dal fatto che questa tattica di atti, singoli atti di violenza avevano portato soltanto a repressioni e avevano danneggiato il movimento. Ed è nell'inverno, cioè a Capodanno 88-89, San Silvestro, nel villaggio di Heinfeld, H-A-I-N-F-E-L-T, Heinfeld, in Wienerwald, dove lui compie il suo lavoro di unificazione. Come ha fatto questa unificazione? Da un lato della fissazione alla ortodossia marxista, e dando ai radicali appunto il contentino di una visione millenaria, profetica del futuro socialismo, e nello stesso tempo con una pratica moderata. Si può dire che quella formula, la formula di unificazione che lui è riuscito, è quella di una fraseologia radicale e di una praticità pragmatica moderata. Questo rimane, si può dire, la formula e la grande eredità, il grande mito creato da lui, che ha questo mito dell'unità, che bisogna fare del tutto per evitare delle scissioni. È quello che ha formulato una volta il suo beniamino Otto Bauer, che è meglio andare insieme un po' di strada sbagliata, perché i difetti si possono sempre correggere, che dividersi per la ricerca della via giusta. Questo è, diciamo, la grande eredità dell'austromarxismo, la grande eredità di Viktor Adler, che è la base anche per il grandissimo prestigio che il austromarxismo godeva e ancora in un certo senso gode anche nel periodo della piccola Austria, nonostante il peso, diciamo, piccolo nella internazionale, perché subito dopo questa unificazione dell'80-89 scoppia in Germania la discussione sul revisionismo, e poi dopo c'è la scissione del fracomunismo, e tutte queste scissioni sono state superate in Austria, superate in Austria, emarginati in Austria, grazie a quella grande eredità che opera fino adesso, si può dire, anche nella Seconda Guerra Mondiale. Il fatto che per esempio in Austria quasi non esiste partito comunista, nonostante tutti gli aiuti dei sovietici eccetera, è dovuto al fatto che questa ideologia dell'unità operaia è diventato, si può dire, un dogma del movimento socialista, specialmente l'unità operaia è la cosa più importante. Questa conservazione dell'unità naturalmente viene pagato con anche certi difetti, specialmente quello che Karl Renner una volta ha chiamato la politica della fraseologia radicale, di politik der radicalen frase, come lui ha detto una volta, che non si può sempre parlare della rivoluzione e poi subito dopo dire ma adesso non la possiamo fare per questa o per quella ragione. Continuamente la rivoluzione, ma però non la possiamo fare. Questo dice Renner, che era un pragmatico, se si vuole anche un opportunista, ha detto questo non si può fare, questo porta a grandi svantaggi. Infatti aveva grandi svantaggi, perché dava agli avversari l'occasione, in buona o in mala fede, di considerare i socialdemocratici austriaci più radicali di quello che in verità non erano, sia in buona che in mala fede. Alcuni in buona fede, alcuni in mala fede consideravano gli austromarxisti sempre dei quasi bolscevici, dei sovvertitori, dei rivoluzionari, che loro in verità non erano per niente. Per dare le mete immediate di Viktor Adler sono, da un lato, il miglioramento della posizione economica dei lavoratori attraverso la collaborazione con i sindacati. Lì c'è per esempio questa sua bella frase, che è diventata anche una specie testamento, che il movimento sindacale e il movimento politico devono essere dei gemelli siamesi, siamesi cioè twilling, devono essere cioè inseparabili, e dall'altra parte la lotta per il suffragio universale e uguale. Queste sono le due cose, e in quel periodo, dopo l'unificazione, viene una grande espansione del movimento, che è favorito anche dalla situazione economica, perché finisce la grande, cosiddetta grande depressione. Negli anni 90 c'è un nuovo ciclo positivo, una nuova congiuntura positiva che aiuta l'espansione del movimento operaio e le rivendicazioni specialmente dei sindacati. E in quel periodo anche il governo e i circoli conservatori, che avevano sempre avuto una certa simpatia, un certo interesse per il movimento operaio, in quel periodo diventano più interessati del movimento operaio, perché per superare la lotta nazionale. Cioè già il governo Taft cade, per esempio, perché vuole introdurre il suffragio universale, perché spera che le masse popolari, già sotto Taft era stato diminuito, dimezzato il censo, e così potevano votare i piccoli artigiani, i cosiddetti da 10 gulden a 5 gulden, così i piccoli artigiani, i contadini, eccetera, potevano già votare, e sono i Gulden, cioè i piccoli borghesi che entrano nella politica, sia nella politica comunale di Vienna che nella politica austriaca. Questo è uno delle mete, e il governo ha un interesse anche perché spera che le masse non sono tanto interessate nelle questioni di prestigio nazionale. Nel 96, infatti, il governo Badeni poi crea una quinta curia, la curia universale, che però ha solo 72 deputati, e di cui poi 16 socialdemocratici vengono eletti. In quel periodo però questi 16 socialdemocratici, deputati socialdemocratici che entrano adesso nel Parlamento, che sono ancora poco pratici, non hanno nessuna pratica parlamentare, qui vengono in un certo senso poi vittime della demagogia nazionalistica di Schröder e dei suoi allievi e dei suoi seguaci. C'è il periodo del governo Badeni, della lotta contro le Strafverordnungen di Badeni, dove i socialisti una volta, cioè i socialdemocratici, decidono di fare un Sturm, di conquistare la presidenza, cioè di forza con i loro muscoli saltano su al palco della presidenza, buttano giù la presidenza, stracciano gli atti del Parlamento, le carte le buttano nel Parlamento. Un atto che poi ha come conseguenza la lotta sulla Lex Falkenhayn, che questi 15 socialdemocratici e due dei Schröder e Wolf vengono portati fuori a viva forza dalla polizia. Si trattava del problema della possibilità di esclusione. Questa situazione che porta quasi a una situazione rivoluzionaria, tanto è vero che Francesco Giuseppe poi lascia cadere, per paura di una rivoluzione, lascia cadere Badeni, hanno portato a una certa collaborazione fra i nazionalisti tedeschi e i socialdemocratici, una collaborazione non diciamo programmatica, ma di fatto, perché tutte e due rivolgono contro il governo, e anche i cristiano sociali poi prendono parte, perché tutti hanno il sentimento: se noi non facciamo parte perdiamo le masse, perché le masse sono talmente eccitate contro il governo, contro Badeni, le masse di Vienna, che sia i cristiano sociali, che avrebbero dovuto essere alleati con Badeni e con la maggioranza, si scagliano contro di loro, contro Badeni, con una scusa anche qui di antisemitismo contro un suo collaboratore, Halban, e anche i socialdemocratici. Che porta a una specie, questi avvenimenti portano a una specie di, dappertutto, in tutta l'Austria, in tutti i circoli politici, una specie di Katzenjammerstimmung, come si può dire, hangover. Dopo questo avvenimento, in campo socialista si nota che si è fatto una grande sciocchezza di combattere Badeni, perché i compagni slavi sono rabbiosissimi che Adler e i suoi hanno qui collaborato con i tedesco nazionali. C'è sempre la denuncia che Adler e Pernastorf ritornano ai loro origini pangermanisti e tedesco nazionali, ed è diciamo quel ripensamento porta al programma delle nazionalità di Brünn nel 1899, ai lavori di Karl Renner e di Otto Bauer, sui quali ha scritto il nostro amico Agnelli, che purtroppo non è ancora qui, che ha scritto un bellissimo libro sul nazionalismo e questione sociale, nei lavori di Adler, di Renner e di Bauer. E in quel periodo avviene, dopo il cambiamento del secolo, avviene un certo inserimento del movimento socialista nello Stato. C'è il comune interesse dei ceti dirigenti e della socialdemocrazia di combattere il nazionalismo sfegatato che sta per distruggere l'impero plurinazionale. C'è una certa collaborazione che, per esempio, trova la sua espressione nel fatto che Renner, che è bibliotecario del Parlamento, pubblica le sue opere, deve pubblicarle come impiegato statale, deve pubblicarsi con pseudonimo, perché tutti sanno chi è, e il primo ministro Körber lo promuove fuori straordinariamente per questi suoi lavori che sono usciti sotto pseudonimo. C'è lì una certa collaborazione fra lo Stato da un lato e la socialdemocrazia, e il periodo in cui Adler poi l'incendio ha attaccato la nostra casa, cioè l'incendio nazionalista ha attaccato la nostra casa, cioè il Partito Internazionalista, e dall'altro lato la burocrazia vede molto di buon occhio i progressi della socialdemocrazia, perché appunto spera che questo porterà a una diminuzione della tensione nazionale. I movimenti di massa, il cristiano sociale da una parte e i socialdemocratici dall'altra, si spera che diventino forze centripetali in questa situazione. Così quando il suffragio universale viene introdotto nel 6-7, anche lì c'è l'impulso della rivoluzione, della prima rivoluzione russa, Adler collabora per esempio per la delimitazione dei seggi, come si dice, dei collegi, e lì c'è veramente questa collaborazione che il geniale demagogo Luega poi parla della KK privilegierten österreichischen Sozialdemokratie, della imperiale reggia privilegiata socialdemocrazia austriaca, per prendere in giro, veramente avviene per esempio che Pernastorf, che da giovane aveva avuto un processo per lesa maestà, adesso come uno dei presidenti del Parlamento deve far visita all'imperatore Francesco Giuseppe, che dopo questa visita dice è stato molto gentile con me il Pernastorf, perché il Pernastorf da giovane aveva tanto attaccato la dinastia e adesso ha dovuto fare con in frac e cilindro la sua visita a Francesco Giuseppe. I progressi della socialdemocrazia dall'altra parte vengono diminuiti appunto dalla questione nazionale, dalla scissione prima dei sindacati e poi del partito, specialmente i cechi che si separano, che si ribellano, che si sentono lasciati, piantati in asso, traditi da Adler e dal partito, perché appunto loro avevano combattuto contro le Sprachenverordnungen. E dall'altra parte, nelle elezioni dell'11, i socialisti, le perdite che sono causate da questa scissione nazionale vengono più che colmate dal fatto della grande disfatta cristiano-sociale. E qui anche di nuovo si vede una certa collaborazione fra i socialdemocratici da un lato e i nazionalliberali e nazionalisti, Deutsche National, dall'altro, sulla comune base dell'anticlericalismo. Il sistema elettorale austriaco della monarchia è ancora quel sistema come in Inghilterra, dove poi però se nessuno dei candidati ha la maggioranza assoluta, viene fatta una elezione 2 settimane dopo, e lì avviene nell'elezione dell'11 che, per esempio, se la lotta è fra un candidato cristiano sociale o clericale da un lato e un nazional liberale dall'altro, i socialisti votano per il nazional liberale. E lo stesso quando, per esempio, c'è la lotta fra un nazional liberale, fra un socialista socialdemocratico e un cristiano sociale, i nazionalisti tedeschi votano con lo slogan Lieber rot als schwarz, meglio rosso che nero, votano per il socialista. E così il partito conserva la sua forza, benché fra i deputati tedeschi è solo al terzo posto. Il più grande numero è questi liberali nazionali, il Deutsche National, poi seguono i cristiano sociali e al terzo posto sono i socialdemocratici. Questa è la situazione su per giù del partito quando scoppia la guerra. Al contrario della socialdemocrazia tedesca, la socialdemocrazia austriaca non si è trovato nella situazione di dover votare i crediti, perché il Parlamento non funzionava, era stato mandato a casa e il governo regnava già da parecchi mesi col paragrafo 14, quello dell'emergenza. Così i socialdemocratici austriaci non si sono trovati nella posizione di votare sì o no i crediti, però hanno aderito con grande entusiasmo al atteggiamento dei loro compagni tedeschi. C'è il famoso articolo della Arbeiter Zeitung, der Tag der Deutschen Nation, perché loro, forse ancora di più dei socialdemocratici tedeschi, erano convinti che si trattava di una guerra difensiva contro lo zarismo. Questo è il ricordo dell'intervento dello zarismo contro la rivoluzione del 48, si risveglia poi i ricordi appunto pangermanici, Grostoc, Arlal, il legame col partito appunto di Marx e di Engels, l'ammirazione per il partito tedesco, tutto quello contribuisce all'atteggiamento del Parteivorstand, diciamo della direzione del partito. C'è poi un fatto anche curioso che per esempio Adler e Renna intervengono in favore del rivoluzionario russo, del cittadino russo Ulianov, cioè di Lenin, che al momento dello scoppio della prima guerra mondiale si trova sul territorio della monarchia austriaca, cioè dell'Ungheria settentrionale, nell'attuale Slovacchia, e viene arrestato, e sia Adler che Renna si impegnano di fronte alla, intervengono alla polizia per dimostrare che questo signor Ulianov è veramente un nemico dello zarismo, e infatti Lenin viene lasciato libero e va in Svizzera. Questo è anche qui, in questo atteggiamento si spiegano anche i giudizi negativi della Arbeiterzeitung di fronte a Cesare Battisti, per esempio. Che Cesare Battisti nella Arbeiterzeitung viene considerato non proprio un traditore, ma un uomo che si è lasciato trascinare troppo dal nazionalismo italiano, che, e perciò ha avuto questa fine. Insomma, gli atteggiamenti molto negativi della Arbeiterzeitung al momento del processo e della condanna di Cesare Battisti. Naturalmente questo atteggiamento per la guerra, cioè, che non hanno voluto, naturalmente questo è sempre stato sottolineato, ma diciamo di sostegno del governo, questo atteggiamento viene criticato anche dentro il partito, la sinistra che si scaglia contro il cosiddetto contro i cosiddetti social patrioti, cioè contro la direzione del partito, e il capo di questa opposizione è il figlio stesso, il figlio di Viktor Adler, Friedrich Adler, e i suoi compagni di corrente, di età, eccetera, specialmente fra gli intellettuali ebrei di origine ebraica di Vienna come Dannenberg e altri. E Friedrich Adler, che poi specialmente prende di mira come nemico dentro il partito Karl Renner, che lui considera l'opportunista, il traditore, il Lega del nostro partito. E come voi sapete, Friedrich Adler poi si decide a un gesto clamoroso, cioè l'uccisione del primo ministro Conte Stür, che lui ammazza in un ristorante a Vienna, molto tipico, che lui aspetta lì quando il Stür, che mangia ogni mezzogiorno, ogni giorno in quell'albergo Maison Chardin, lui va lì molto cortesemente vicino al suo tavolo, domanda se veramente se il primo ministro Stür, quello dice di sì, lui tira fuori una rivoltella, lo ammazza e poi sviene. Il cameriere dice aiuto, aiuto, anche questo mi muore, perché era per lui una cosa tragica, ed era una cosa tragicissima naturalmente per Viktor Adler, e specialmente per la moglie di Viktor Adler, che era un credente israelita, che trovava che suo figlio aveva ucciso un uomo, era una cosa terribile. Il partito in un primo momento dice ma Fritz è diventato pazzo. Poi nella primavera del 17 c'è il grande processo e Fritz Adler fa la sua famosa difesa, dove lui attacca specialmente le forze social patriottiche dentro al proprio partito. Attacca anzitutto Renna in una maniera proprio feroce e diventa... perché intanto la situazione in questi pochi mesi fra la uccisione di Stürck e il processo, la situazione è cambiata. È morto Francesco Giuseppe, è venuto il nuovo imperatore Carlo che ha richiamato il Parlamento, che ha una politica di amnistia, di pace, e poi ci sono i due grandi eventi, la rivoluzione in Russia e l'entrata in guerra della Unione Sovietica. Cioè no, dell'America. Dell'America, scusi, degli Stati Uniti, volevo dire. La rivoluzione di febbraio in Russia e l'entrata dell'America. Che cos'è la situazione completamente cambiata? Adesso la guerra non è più una guerra per la libertà contro lo zarismo, ma una guerra to make the world safe for democracy contro il militarismo. E Fritz Adler diventa l'eroe delle masse, l'eroe delle sinistre, anche in tutta l'Europa, per esempio in Russia si erano battezzati strade e piazze col nome di Fritz Adler. La sinistra guadagna sempre forze e poi specialmente anche da quelli che ritornano dalla prigionia in Russia, che hanno visto la rivoluzione russa, fra i quali il più brillante appunto Otto Bauer, che diventa adesso il capo veramente della sinistra. Nel gennaio del 18 c'è il grande sciopero dei lavoratori delle fabbriche delle munizioni, che poi viene finito anche con l'aiuto, con l'intervento della direzione del partito, e poi c'è, su questo non voglio soffermarsi perché l'amico Valiani ha scritto un bellissimo libro su questo, la dissoluzione della monarchia e la fondazione della di Deutsch Österreich, dove poi i socialisti hanno naturalmente, sono in quel gruppo dell'assemblea provvisoria für Deutsch Österreich, che viene che si aduna sulla base del manifesto dell'imperatore Carlo a Vienna. I socialisti sono il partito dei tre gruppi il minore in forma, ma è quello che sa meglio quello che vuole la Repubblica, che vuole l'unione con la Germania, quando si vede che una unione danubiana è impossibile. Ed è specialmente nell'ottobre Otto Bauer, che in una serie, nell'ottobre del 18, che in una serie di articoli sulla Arbeitszeitung proclama quel principio dell'unione con la Germania come unione al socialismo, per ragioni nazionali, per ragioni economiche, perché dice l'Austria di per sé non può vivere, e per ragioni anzitutto anche ideologiche, perché l'unione alla Germania è l'unione, per lui, l'unione al marxismo, l'unione al socialismo, ha un proletariato forte, mentre la piccola Austria ha ancora tanta popolazione agraria che è conservatrice. Lui infatti poi nel marzo del 19 scrive a Kautsky: «Kommt der Anschluss nicht zustande, so wird Österreich ein armseliger Bauernstaat, in dem es sich nicht lohnt, Politik zu machen.» Se l'Anschluss non si fa, l'Austria diventa un meschino stato di contadini dove non vale la pena fare politica. Questa idea dell'unione con la Germania, che viene molto promossa da lui, ma anche gli altri, anche Renna, che fino alla fine aveva cercato di conservare la monarchia plurinazionale, perché lui diceva anche dal punto di vista marxista l'esistenza di uno Stato plurinazionale è meglio di stati borghesi nazionalisti, atteggiamento che di diretto aveva anche la Internazionale Comunista, che ancora pochi giorni prima della dissoluzione dell'Austria fa un appello per la conservazione non della monarchia ma dello Stato plurinazionale e contro la fondazione di stati nazionali borghesi. Questo atteggiamento ormai è superato dalla realtà, anche Renner in quel periodo lì è per l'unione alla Germania, però lui poi si accorge presto che è impossibile, che gli alleati non lo permettono. Renner, nel suo immenso senso di praticità, abbandona poi l'idea del, o come si può dire anche di opportunismo, abbandona l'idea dell'unione con la Germania. Ancora una parola su Friedrich Adler che viene fuori amnistiato, viene fuori dal carcere i primi giorni di novembre, e il 3 novembre il piccolo partito comunista fondato in questi giorni da studenti, anche loro per la gran maggior parte di famiglie borghesi ebraiche, ci sono i famosi, la coppia Friedland, cioè, famiglia Eisler, Rotziger, eccetera, e Friede Friedland, che poi come Ruth Fischer ha scritto il famoso libro contro Stalin, e i suoi due fratelli Eisler, che hanno avuto poi tanta importanza nella Germania orientale, il compositore e il propagandista. Questi fondano un piccolo partito insieme con reduci dalla prigionia in Russia, il giovane Rossi, i soldati, i reduci dal fronte, e vogliono Friedrich Adler come capo, e Friedrich Adler declina. Qui ancora c'è l'idea dell'unità. Victor Adler muore poi il 11 novembre, il giorno prima della proclamazione della Repubblica, ed è la sua idea dell'unità. È tanto più forte. Ed è interessante che il Partito Comunista Austriaco è uno dei più vecchi, perché appunto è nato il 3 novembre del 18, però non è mai riuscito ad affermarsi contro questa idea della unità del partito che è in mano al partito di Victor Adler, contro questo mito, si può dire, di Victor Adler. Le elezioni del 16 febbraio 1919, che sono le prime elezioni col suffragio femminile e a sistema proporzionale, portano poi una vittoria ai socialdemocratici, diventano il partito più forte, ma nello stesso tempo anche una delusione, perché non hanno la maggioranza assoluta, soltanto relativa, rimane una maggiorità borghese, cioè non socialista, e qui di nuovo Friedrich Adler, Otto Bauer e gli altri usano la formula di Victor Adler, cioè di un radicalismo verbale, anche per impedire che le masse vadano nel campo comunista, avvengono appunto questo tentativo puerile di cui ho parlato il 18 novembre, con l'occupazione della Neue Freie Presse da parte di Egon Erwin Fischer, altri sono letterati, studenti, pochi soldati, reduci, che in fondo tutti questi tentativi vengono facilmente debellati, superati e vinti dal Parteivorstand, dalla direzione del partito. La situazione diventa più pericolosa poi nella primavera del 19, quando cioè in Ungheria è in Baviera, ci sono i due regimi comunisti, ma anche lì poi i socialisti austriaci fanno delle dichiarazioni verbali, diciamo, messaggi ai compagni in Ungheria: vorremmo aiutarvi, ma non lo possiamo, perché se lo facciamo l'intesa ci toglie i viveri e ci occupa. Insomma, c'è questo periodo di un certo radicalismo verbale, non solamente verbale, perché in quel periodo, sotto la pressione dei fatti di Ungheria e di Baviera, ci sono diverse leggi molto radicali, come per esempio l'abolizione dell'aristocrazia, le leggi contro la casa d'Asburgo, poi tutte le leggi sociali, eccetera, che sono legate al nome di Ferdinand Hanusch, eccetera. È il periodo in cui Rehm forma il governo, un governo di coalizione col contadino democristiano del Vorarlberg, Jodok Fink, come vice cancelliere, e dove appunto questo governo deve affrontare poi le trattative di Saint-Germain, molto dure per l'Austria e molto difficili, dove però Renner con la sua praticità e con la sua abilità tattica, enorme abilità tattica, riesce anche a certi miglioramenti, per esempio la questione del Burgenland, la questione della Carinzia e in altre cose. Mentre la politica estera di Bauer, che è tutta basata sull'idea dell'Anschluss con la Germania, naufraga, e Bauer dà le dimissioni e Rehm prende anche il dicastero degli esteri. In questa coalizione di Rehm e di Fink, naturalmente dal principio c'è una reciproca sfiducia, una reciproca diffidenza, sospetti. La parte cristiano-sociale considera appunto i socialisti come larvati quasi bolscevici e che vogliono andare avanti, e conia poi lo slogan del Revolutionsschub, delle macerie rivoluzionarie che bisogna portare via. Dall'altra parte, dai socialisti c'è lo stesso sospetto che, specialmente dopo la fine dei regimi in Ungheria, che la borghesia, che i partiti non socialisti, che i partner di coalizione preparano la rivincita, una reazione. Da tutte e due le parti c'è una certa fraseologia radicale, e la lotta poi naturalmente si concentra sull'influsso sull'esercito, quell'esercito mezzo rivoluzionarizzato, la Volkswehr, con le sue Soldatenräte, con i consigli dei soldati, eccetera. E su questa questione poi avviene la rottura della coalizione, che è una tipica Kurzschlusshandlung, si può dire, del Parlamento, come poi succederà ancora peggiore nel 1933. Cioè, da tutte e due le parti c'è la reciproca avversione che diventa sempre più forte, e quando i Deutschnationalen, i Großdeutschen, fanno una anfrage, come si dice, una domanda, un'interpellanza, fanno un'interpellanza su un ordine appunto di Julius Deutsch sui Soldatenräte, avviene un forte scontro fra i cristiano-sociali e i socialisti, cioè i due partner della coalizione, e Leopold Kunczak, il leader dei lavoratori cattolici, fa un discorso molto violento, che dice: se voi credete che noi dobbiamo sempre seguire i vostri ordini, che noi siamo solo il junior partner, che voi potete governare e noi dobbiamo solo dir di sì, allora la coalizione è finita in questo momento. E in quel momento si alza un applauso da tutte e due le parti, cioè sia i socialisti, socialdemocratici, sia i cristiano-sociali applaudiscono da tutte e due le parti: facciamo finita con questa coalizione. È proprio un atto, diciamo, che in una certa situazione, certamente c'è la ondata della controriforma, eccetera, ma qui di lasciare proprio senza preparative di rompere la coalizione è un atto, diciamo, di demagogia, che di quel 10 giugno 1920. Le elezioni poi in ottobre portano una vittoria dei cristiano-sociali, che diventano di nuovo il partito più forte. I socialdemocratici vanno all'opposizione, Otto Bauer spiega questo con una teoricamente molto acuta, che adesso c'è una certa pausa e poi ricominceremo, e questo è necessario, dobbiamo ritirarci, e la fortezza su cui i socialdemocratici si ritirano è la Vienna Rossa. La Vienna Rossa, dove negli prossimi anni fanno delle opere importanti che riscontrano l'ammirazione di tutto il mondo, e Otto Bauer un certo periodo la seconda e la terza internazionale, un'istituzione, un ufficio che viene chiamato, scherzo per beffa, la internazionale 2.5, che sta fra la seconda e la terza internazionale, ma la socialdemocrazia ha certamente subito una sconfitta che porterà poi conseguenze, nonostante le prossime vittorie elettorali, dove si rimonta pian pianino verso la magica meta del 51%, che però non viene raggiunto, finché poi avviene il fascismo e avvengono gli avvenimenti prima del 27, con l'incendio del Justizpalast, poi il montare delle armate politiche, Heimwehr e nazionalsozialisti, ai quali risponde il Schutzbund socialdemocratico, che però, mentre la Heimwehr trova il supporto della Russia, galoppata attraverso la storia, l'anno 20 questa rottura della coalizione certamente troppo presto, perché in una situazione ancora molto delicata dello Stato, è veramente una svolta, e da quel punto di vista si può dire che l'anno 20 chiude il periodo, diciamo, il primo periodo della socialdemocrazia. Grazie. Noi che ringraziamo il professor Paninuska per questa brillante, suggestiva, troppo lunga, cavalcata, no? Abbiamo ascoltato con estrema attenzione. Adesso un quarto d'ora di riposo, 10 minuti di riposo, no? 10 minuti, e poi la discussione, oppure subito la discussione, e dopo andiamo via, ma molto meglio 10 minuti di riposo, e poi rimaniamo. No, bravissimo, perché qui dovremmo fare una storia completa. No, ma è troppo lungo, troppo lungo. Ma cosa si potrà lasciare? Critiche, domande di spiegazione? Ecco. Ah. Il nome sempre. Protokta Vajnik Maxol. Posso parlare in tedesco? Ja, ja, natürlich. Dipende tanto dal quello che è il Naja, deswegen sind, darf ich deutsch antworten, ja. Deswegen ist ja die Sozialdemokratie eben doch eine schwächere Partei geblieben. Also die Bauern waren eben doch die Mehrheit, und alle Versuche, die Bauernschaft zu gewinnen, die es ja auch gegeben hat, sind gescheitert. Denn die Bauernschaft am Land, im Dorf, ist unter dem Einfluss des Klerus organisiert worden, auch politisch organisiert worden, und ist auch ökonomisch, auch die Organisationen, die Reifeisenkassen, Produktionsgenossenschaften und so weiter. Und es ist nicht gelungen, der Sozialdemokratie in der Bauernschaft wirklich Fuß zu fassen. Jetzt hat natürlich ein nationalliberales Bauerntum gegeben. Auch das war sehr gering. Also der Großbauer, der sich mit dem Pfarrer zerstritten hat und so weiter, die sind dann in der Deutschen Agrarpartei oder Deutschen Bauernpartei organisiert gewesen. Aber die Sozialdemokratie rekrutiert sich im Wesentlichen aus der Fabriksarbeiterschaft, beziehungsweise aus denen, die die Verbindung mit dem Land verloren haben, die Handwerksgesellen, nicht wahr? Also die ersten sind ja natürlich die Handwerksgesellen, die dann die Druckerei, das ist ja überall so, auch wie in Deutschland, die Druckereiarbeiter, dann die Fabriksarbeiter und zum Teil eben die, sagen wir, Gesinde, Hauspersonal, am Land, nicht einmal die Knechte sind irgendwie sozialdemokratisch organisiert worden. Daher haben wir ja auch bis in die Erste Republik eben sozialdemokratische Mehrheiten nur in Wien und in der Obersteiermark im Industriegebiet. Und die Eisenbahner. Nicht? Die Eisenbahner spielen eine große Rolle. Ferroviere. Ja, ci sono, signora mi domandava chi sono in fondo, io ho parlato soltanto dei capi e non di che ceti si riconduttava il Partito Socialdemocratico. Sono veramente non i contadini non sono stati mai presi dal socialismo. Ci sono i lavoratori, quei contadini che sono andati in città, i piccoli garzoni dei negozianti, degli artigiani, delle ovvieri, i tramvieri, poi i lavoratori, un po' i lavoratori agricoli, braccianti, ma questo anche pochissimo. Questa è la grande differenza per esempio con i paesi dell'est o con l'Italia. Un socialismo agricolo in Austria veramente non ha mai esistito. Vorrei aggiungere però che nonostante la classe lavoratrice urbana era sufficiente per fare del Partito Socialdemocratico austriaco un partito di massa. Sì. Se prendete il numero di iscritti ai sindacati solo nell'Austria tedesca, cioè poi bisogna aggiungere la Boemia, l'Ungheria, guardate, tutto l'impero, avevano 500.000 di iscritti attorno al 1907, quando fu introdotto, sì. O attorno al 1910, non ricordo la data, ma avevano 500.000 di iscritti. Mezzo milione, quando i sindacati italiani della CGL non arrivarono a 400.000, nel massimo periodo di 480, sì, il numero massimo invece in Austria superava il 500.000. Per di più, il rapporto fra sindacati e partiti era molto più stretto in Austria che in Italia, sì. E forse anche più stretto che in Germania. Sì. I sindacati veramente obbedivano alla direzione del partito, cosa che non facevano in Italia e non facevano neanche col nuovo secolo in Germania. Cioè, proprio questo sistema dei gemelli siamesi è la grandissima autorità di Victor Adler. Dopo la guerra del 18, addirittura i sindacati operai austriaci ebbero 800.000 iscritti in un paese che cosa aveva? 6 milioni di abitanti. Ebbero 800.000 iscritti, cifra che conservarono fino alla crisi del 29-33, cioè era veramente un grande movimento di massa, anche se non riusciva a far breccia, come giustamente detto, fra la popolazione agricola. Sì, perché di questi 6 milioni austriaci, 2 milioni abitavano a Vienna. La socialdemocrazia riuscì a organizzarli. Sì, sì. Vielleicht noch etwas, einen Teil der Intelligenz eben auch noch, also Lehrer, zum Beispiel Volksschullehrer, hat viele gegeben, die sozialdemokratisch waren. Diciamo la piccola anche nella piccola borghesia, in parte della piccola borghesia. La parte intellettuale, diciamo. Intellettuale, sì, sì, da intellettuale. Figati maestri, per esempio. Figati maestri. Poi una gran parte degli immigrati, immigrati dalla, dalla Boemia, che venivano, Divina Cechin, zum Beispiel. Divina Cechin waren großteils sozialdemokratisch. Zum größten Teil, weil sie kleine Leute waren, die, questi erano Calzolai, Sarti, eccetera. Lì c'era un grande. E poi l'elemento ebraico anche è stato molto forte, in quanto ha lasciato, diciamo, si è assimilato in quanto emancipato. Prego, portare io. Chi è? No, no, no. Allora, bitte, bitte. Wir haben gestern das Talent des Theaters zum Komponieren geschildert. Halte das aber aus in einer Identifikation mit einer so vielschichtigen Partei. Und wäre es nicht interessant zu sehen, inwieweit sich die österreichische Sozialdemokratie in ihrer Organisationsstruktur an das deutsche Filmbewunderte Vorbild orientiert hat. Konkret, wie weit war die Parteizentrale an der Basis präsent? Wie weit reichte der Einfluss da als organisatorisches Modell? Das, hier spielt eine ganz wichtige Rolle, was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, die Parteipresse. Viktor Adler hat wirklich die Partei als einen Orden sozusagen organisiert. Er war ein großer Menschenführer auch. Und er hat diese Parteischulen, die Parteihochschule, er hat er war ein großes Talent-Scout. Er hat also die Leute entdeckt, der ist für das gut, der ist für das gut, der soll Jus studieren, der soll das machen. Er hat eigentlich die Karrieren seiner Mitarbeiter ganz wesentlich auch selbst gestaltet, ausgewählt. Und das kommt in dem Buch von Mirsch sehr deutlich zum Ausdruck, trifft aber nicht nur auf Österreich zu, sondern etwa auch auf Russland und so weiter, dass ja am Anfang Parteiführung oder Führung einer bestimmten Gruppe in der Partei und Redaktion einer Parteizeitung vielfach identisch waren. Das bleibt bis in die Erste Republik. Noch Otto Bauer hat eben einen großen Teil seiner Zeit in der Redaktion der Arbeiterzeitung mit dem Verfassen von Artikeln verbracht. Viktor Adler hat die Einigung mit Hilfe seiner Zeitung durchgeführt. Er hat die Arbeiterzeitung dann zum Organ der Bewegung gemacht und die Arbeiterzeitung ist eben von allen gelesen worden. Jeder sozialdemokratisch Organisierte hat die Arbeiterzeitung gelesen und was in der Arbeiterzeitung stand, war eben Evangelium. War Dogma. Ein Zufall, war die Zensur dann nicht so stark zu spüren wie in Italien oder was zum Beispiel? In der Weltkriegszeit war da. Im Krieg sicher, da war. Aber da trotzdem, man hat, wenn man die weißen Flecken gesehen hat, hat man eben gewusst, da ist etwas Wichtiges. Dass das deutsche Beispiel vorbildlich war, das ist klar. Also für Viktor Adler schon von seinen sozusagen deutschnationalen Ursprüngen her und noch viel stärker Bernersdorfer und so weiter, für die war eben die deutsche Partei das große Vorbild. Bebel, und sie war die Partei eben von Marx und Lassalle und Friedrich Engels und Kautsky und Bebel und Liebknecht, das waren alles engste persönliche Freundschaften. Und die Orientierung noch Scherf hat ja noch in seinen Erinnerungen geschrieben, meine geistige Heimat war immer Weimar und erst unter dem Nationalsozialismus habe ich dann erkannt, dass wir uns davon trennen müssen und so weiter. Und Friedrich Adler hat noch über 1945 in der Emigration ja an diesem daran festgehalten. Otto Bauer auch noch. Otto Bauer ist 1938 in Paris gestorben. Und hat bis zum Schluss gehofft, dass ein gemeinsamer Kampf in einem Weltkrieg und so weiter gegen Hitler dann zu einer großdeutschen sozialistischen Republik führen wird. Und Friedrich Adler hat in der Emigration nach 45 sich gegen ein selbstständiges Österreich zuerst gewandt. Hat gesagt, ich will nichts mit einem Land zu tun haben, das Goethe und Marx als Ausländer bezeichnet. Nicht wahr? Er hat sich dann mit abgefunden, ist dann nach Wien gekommen und so weiter. Es gab dann eine Versöhnung, hat am Grab seines Vaters gesprochen und so weiter, also bis er gestorben ist. Aber zunächst, nach 45, war er für ein sozialistisches Großdeutschland. Non so se devo tradurre il problema dei rappresentanti della struttura organizzativa e pure la Germania ha preso come modello dalla storia della democrazia. Sì, quando ho visto dire che c'è la socialdemocrazia, pensavo che venisse considerata la socialdemocrazia in tutta Italia, cioè compresa anche gli accenni al problema boemo, cioè alla democrazia ceca e tedesca di Boemia, che credo ha avuto un ruolo abbastanza importante proprio per la dislocazione dell'industria, perché è stata abbastanza. No, mi sembrava che questo accenno si fosse necessario anche per capire meglio il discorso proprio della democrazia sia messo in aspetto e per capire il problema anche delle nazionalità, come poco a poco la democrazia sia che venga prendendo coscienza di questo problema della nazionalità e sapendo che questa partita era un punto che era abbastanza contrario a questa tematica, no? Perché Oberlinda era contrario. Ecco, questo non lo sta facendo, non lo fa. Devo ricordare un po' di questa opera di che a me sembra molto utile, di Dennis Scholle, che si fa nazionale. La prima internazionale è l'Auster, che proprio colpisce questo problema all'inizio, insomma, no? Cioè questa lenta presa di coscienza di offrire posizione nazionale, dall'altra parte, la parte cieca, il sempre più siamo in alcuni dei paesi, che non dobbiamo lasciare alcuni dei paesi, agli occhi dei ciechi il movimento democratico perde quella caratteristica tedesca che aveva avuto, cioè i ciechi era un movimento solo tedesco, vedevano dopo alcuni paesi capiscono che c'è questa maggiore apertura e capiscono che il movimento tedesco è un movimento ben più ampio e va al di là del mondo tedesco, insomma c'è anche questo problema. Però dopo di nuovo c'è la scissione, poi c'è la delusione dopo Badini e poi c'è la lotta dopo che viene portato fino all'internazionale lì c'è naturalmente anche il problema che c'è sempre in misura molto più grande nell'Africa o con i lavoratori di colore, che lì per esempio i lavoratori cechi o slovacchi si contentavano di paghe minori dei tedeschi, così portavano il lavoro via ai tedeschi. I tedeschi, mentre i cechi e slovacchi poi accusavano i tedeschi di prepotenza, eccetera. L'abbiamo il caso classico, per esempio, un curioso fatto di quella piccola città di Zilli, adesso in Jugoslavia, dove una città tedesca, la borghesia tedesca, in un paese sloveno. I sloveni vengono dentro, pian piano salgono socialmente e cade un governo austriaco, il governo Lindenscheid, di coalizione conservatore liberale nel 94, sulla questione delle classi parallele slovene. E nello stesso Cile, dove succede questo fatto incredibile, che il governo il governo di un grande impero cade sulla questione di classi parallele in un singolo ginnasio di una piccola città, nella stessa città c'è poi la lite nelle organizzazioni socialiste, perché Cile appartiene alla Stiria, ma slovenicamente considerano la loro capitale Lubiana, e allora mentre gli uni vogliono dipendere da Graz, gli altri vogliono dipendere da Lubiana, e c'è nella stessa città di Cili dove il governo ha questo, qui anche si vede il parallelismo degli interessi fra il governo e la socialdemocrazia, perché tutti e due soffrono sotto gli stessi problemi. Lei ha ragione di dire questo, naturalmente si avrebbe dovuto dire ancora molte cose, ma io come viennese, e poi partendo poi fino a dato che anche il tema è qui Germania eccetera, mi sono concentrato sui tedeschi, ma è interessante che per esempio i cechi erano i primi che hanno poi coniato questa parola socialismo nazionale, la parola nazionale socialismo, poi il contrario a loro si fonde nel 1903 la Deutsche Arbeiterpartei in Boemia, che nel 11 manda tre deputati, che sono tutti tre dei paesi boemi, della Boemia del Nord, al Parlamento, e questo partito nel 18 cambia il suo nome in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, che è poi il nome che prende quel piccolo gruppo di Monaco dove il socio numero 7 diventa libero. Ed è veramente la parola nazionalsocialista, che si può dire in un certo senso, è una invenzione cieca. Sì. Sempre dire il nome, ha parlato del programma di Einstein, non ha parlato poi della revisione del programma del 1901, della revisione del programma di Einstein, una revisione del programma che Victor Adler cercò in una maniera di limitare, non parla parlando di cambiamenti puramente relazionali e secondari, ma che trova tuttavia da parte invece di Austria e della Germania. Penso deciso, e invece trovò il plauso di Bernstein, che parlò di successo della propria attività. E ora mi sembra che i punti fondamentali del cambiamento del programma di Einstein fossero da una parte la cancellazione della teoria della frase relativa alla teoria del provvedimento, che era stata introdotta nell'89. E poi, se non sbaglio, anche il rifiuto, mi sembra, il proprio ruolo del congresso, anche se non ho detto il protocollo, perché sono alcuni fatti, gioca anche una certa funzione nel congresso del 1901 il fatto dell'introduzione o meno dell'obiettivo della festa del potere nel programma, che non era presente nel libro del programma di Einstein, ma che però costituirà, come almeno aveva costituito, come un articolo del sentimento ha fatto una raccolta di il volume della genere, aveva fatto però un ruolo nella formazione del programma di Einstein, in cui era stata appunto la introduzione di questa prodotta del processo della novità, che però nella presentazione del programma di Einstein è stato cancellato, per poi essere introdotto con in commissione, quella famosa commissione di Einstein, che deve essere introdotto nella commissione nel testo finale, deve essere sottolineato dal presidente nella risoluzione sulla tavola. Ecco, il problema della festa del potere è che mi sembra si possa dire, e quindi io voglio anche chiarire, riguardo al problema tedesco, mi sembra si possa dire che costituisce un po' il punto di passaggio, diciamo, a quell'obiettivo mai raramente detto, ma spesso presente in dibattito politico per il mondo, che nasce della vita proletaria, e che il cui abbandono, il rifiuto di produzione finita ebbe un male da accettazione della critica di Bernstein alla tattica votata per il progresso di Erfurt del 91 e di diffusa della seconda internazionale, finalizzata in fondo ad una crisi politica ed economica estremamente ravvicinata, no? E al contrario costituisce la rinuncia ad una visione immediata della presa del potere e a un rimando di questa prospettiva nella visione di una politica sostanzialmente di riforma, cioè, che si può finanza probabilmente, lo stesso rapporto tra città e partito diventa finanza. Ecco, come dire adesso problema? Questo è molto importante, molto interessante, la ringrazio che ha messo in luce questo fatto. Io avevo già detto che Victor Adler era anche amico di Bernstein. Lui, il suo atteggiamento è stato simile a quello di quel bavarese, credo era, adesso non mi viene in mente. Credo che sia stato Folman, ma non sono sicuro, certo, che ha scritto, no, era un altro, che ha scritto a Weber, caro Ede, Ignaz Auer che ha scritto, caro Ede, ci sono delle cose che si fanno ma che non si dicono, das Denkmann, das Reifmann, aber das darf man nicht sagen, qualche cosa così. E questo è assolutamente l'atteggiamento di Adler. Lui scriveva a Weber anche in quel senso, anche lui cercava di calmare, diceva guarda, Ede ha ragione in molte cose, ma non doveva dirlo in questa maniera brutta, perché lui guardava, pensava sempre alle masse e diceva cosa pensano le masse se ad un tratto i capi dicono tutto questo che Marx diceva non è vero, deve essere cambiato, eccetera. Lì c'è un rapporto molto interessante della polizia, che è stato citato nel libro, ottimo libro di Fuchs, che avrei anche dovuto nominare, Albert Fuchs, sulle gesti di Strömungen in Österreich, un giovane comunista di famiglia borghese, che è poi morto molto giovane, che cita questo rapporto di polizia dove un confidente della polizia, che pare che sia stato molto ben dentro alle questioni ideologiche, fu scrive 100 civili polizei, dato sì, persone polizei, ma tutti gutti schulte mitarbeiter, o viele einen gutti schulte mitarbeiter hatte, dove scrive in fondo Victor Adler condanna il revisionismo, ma introduce un revisionismo larvato, diciamo un revisionismo larvato. E questo è certamente vero, ma per Victor Adler la questione di per sé se, era diciamo relativamente non aveva tanta importanza le questioni. Così lui certamente quel cambiamento del 1901 l'ha accettato, come cercava di minimizzarlo, come lei ha detto giustamente, adesso non ha tanta importanza. In uno dei convegni di Linz, come si chiama una specialista del socialismo che abita a Bonn, senti di mio figlio, Susanne Miller ha detto, riportato una frase molto tipica, che non bisogna travisarla, bisogna capirlo bene, ma molto stato in Missverständnis, dass bei irgendeinem Anlass war eine Diskussion, o in qualche occasione c'era una discussione, uno dei sindacalisti, un lavoratore veramente domanda un altro in questa discussione, ma chi ha detto la ragione? Ede, Bernstein o Kautsky? E allora l'altro dice, aber lasst das unsere Juden allein aus, unter sich ausmachen. Perché lascia che dovesse spaccare i capelli in quattro gli ebrei dell'Ottocento, gli ebrei quelli non intellettuali, non era antisemitico, era gli intellettuali noi pensiamo adesso ai nostri contratti sindacali, alla nostra organizzazione, questi sono i nostri intellettuali che devono rompersi la testa. Questo e in questo senso anche Victor Adler non era un intellettuale, con tutta la sua simpatia umana per Engels, con tutto quello, lui non era un teorico, era un uomo che vedeva sempre le persone e pensava che cosa dicono i nostri lavoratori se ad un tratto iniziamo a amare i sacri sensi. Io vorrei aggiungere che poi questa questione del proletariato dobbiamo anche vederla come questa sera, pensando psicologicamente il dibattito in Italia. Andrea Costa era il professore del proletariato, così il vicepresidente della Camera, ma la prendeva dai franchisti, non da parte. Francesi pare la prendeva ovviamente dal franchismo. In Austria-Ungheria, chi fece la dittatura del proletariato fu il partito democratico ungherese, che era considerato il più moderato di tutti i partiti socialdemocratici, più moderato dell'Austria, molto più moderato, più moderato del CEPA, anche perché la repressione politica in Ungheria era così forte, che il solo fatto di scrivere la Repubblica portava in prigione, diciamo, scrivere per la dittatura del proletariato per una rivoluzione violenta. Questo partito, semplicemente sono la costruzione delle circostanze obiettive del dopoguerra, del 1919, instaurò esattamente il sostegno della Repubblica, diciamo, militarmente sconfitto la dittatura del proletariato. Cioè, molto più di queste cose hanno guardato i fatti reali che non le discussioni teoriche. Poi, naturalmente, dopo la fondazione dell'Internazionale Comunista, le discussioni teoriche hanno cominciato a avere una grande importante provocando fiori dei partiti socialisti europei su questo argomento. Ma prima del 17, questo era veramente un argomento accademico, perché si è talmente lontani da ogni situazione obiettiva che rende più possibile. Ecco, se posso fare una domanda. Non credo che il problema della questa è il potere della dittatura del proletariato, io lo prendo in termini molto legati, anche se poi in quanto accordo di quello che verrà assolutamente un po' più forte, se non pure nella compresa in termini marxisti della socialdemocrazia tedesca, penso anche dalla seconda internazionale di genere. Però ecco, non credo che questo problema della dittatura del proletariato si venisse a rispecchiare il problema dei tempi della rivoluzione, quindi anche del problema della forma della rivoluzione nel periodo della seconda internazionale, che col programma di Erfurt aveva trovato in certa misura una soluzione tacita, che era quella della teoria del Kroll, poi verso metterà in discussione, no? E che poi era servita da specchio per tutti i partiti della seconda internazionale. E sul programma di Erfurt, anche per gli italiani, se non va errato, avevano calcato la propria politica, anche se probabilmente in termini di strategia si sarebbe da vedere grossissime differenziazioni. Ecco, però non credo che su questo problema, al di là appunto della capacità di comprensione, di capire che cosa effettivamente si indicasse, riposta appunto il discorso fondamentale da una parte del riproporsi di una rivoluzione di tipo giacobino, comunque di un crollo, che si sarebbe manifestato in tempi brevi, che è chiarissimo nel dibattito sulla tattica a est, perché abbiamo un legame strettissimo nel dibattito di Roma. E dall'altra, invece, dopo in Germania, dopo il fallimento relativo delle elezioni del 93, dopo il fallimento della politica agraria, l'impatto della politica agraria, che è prima di tutto l'impatto dei rapporti di forza interna del partito, dopo la fine della Grande Depressione, assume il problema della strategia politica, comincia ad assumere connotazioni nuove, si parla più di soldi, si parla di attività all'interno della società, si riconosce il periodo pacifico dello sviluppo della socialdemocrazia e appunto con attenzione a questi fenomeni del comunismo, del riformismo, del romanzo e così via. Ecco, non vede che il dibattito a livello programmatico di Europa, il dibattito sulla presa del potere, sulla dittatura del proletariato rispetto a questa. In un modo un po' diverso, detto lei ha fatto il problema delle istituzioni esterne, proprio quelli che venivano nel collo non avevano motivo in testa di discutere della crisi. Perché siccome il crollo era previsto come fa poco, poi quando ci sarà il crollo, ci mettiamo in... Marx stesso, in una lettera a Domela, socialista e anarchico olandese nel 1881, dice che gli aveva posto il problema della dittatura del proletariato, risponde il problema è che quando ci sarà il crollo noi riusciamo a coordinare talmente la borghesia da avere un po' di spazio, un po' di respiro per per farsi vedere dentro il personaggio di questa parte reale, perché non volendo essere utopista, non voleva dare un programma di governo dettagliato per una cosa ancora più lontano a venire. E l'esempio che faceva Marx è quello della comunità di Parigi, che avessero confiscato loro della Banca di Francia, avrebbero avuto un mezzo di contrattazione con i bersaglieri. Cioè chi credeva veramente nel loro l'arte, naturalmente poi deve, eccetera, e anche no, avevano meno interesse a, per quanto Klaus un po' l'abbia contato, ma avevano meno interesse a entrare in questo problema. L'idea era un po' questa, che risulta anche dal carteggio Engels-Weber, si pone questo problema proprio di una eventuale guerra europea. Ci sarà il crollo economico, poi ci sarà la guerra, o insieme prima l'uno più dopo l'altro, e poi insomma la socialdemocrazia agirà un po' come i giacobini agirono nel 1793. I giacobini, cioè, che misero una dittatura rivoluzionaria senza pensare prima che cosa avrebbero detto, ma più si regolarono sulle circostanze. E proprio Otto Bauer, per giustificare se stesso, poi il conto dei pezzi dei corridi che rende, mi pare già il libro, forse un po' prima del libro, del 4, diceva effettivamente il libro del 1793 ha avuto un grande merito nella storia del movimento operario europeo, perché in paesi come l'Austria e la Germania, in cui in realtà una tradizione giacobina non era mai esistita, come in Francia, dove è andata avanti con la comunità di Parigi, con la comunità fino alla prima guerra mondiale. Quelli che si ponevano il problema della politica del potere erano proprio quelli che non credevano al problema economico. Che volevano che per conquista del potere intendevano la conquista del potere parlamentare. Cioè avere o la maggioranza del 51% oppure con la coalizione dei partiti della sinistra democratico liberale borghese fare la coalizione. Perché questi allora, Benz naturalmente era come politico pratico, era un pezzo fuori d'acqua, era un teorico, ma un po' lui di strada, che era il capo, il cervello politico della ala destra della democrazia, perché sarebbe certamente diventato il capo del partito se non fosse morto nelle prime finali della guerra del 14, e lui era padre, mi pare, no? Mi pare del padre. Lui aveva da vicino questo problema perché si stava formando una coalizione in cui la socialdemocrazia poteva andare al governo. E si poneva questo problema anche, per esempio, accettavano ciò per generale, per l'istituzione del suffragio universale e segreto dei guardi in Russia, perché col suffragio universale la socialdemocrazia avrebbe avuto in Russia la maggioranza relativa e forse anche la maggioranza assoluta alla dieta sociale, e il governo sociale era di gran lunga più importante di tutti i governi. Quindi erano proprio loro si ponevano questi problemi, perché era un problema reale, mentre la dittatura del proletariato era già tutto troppo lontano. Per esempio, Rosa Luxemburg, che diciamo quella che ha scritto il libro fondamentale sulla teoria del crollo economico, sulla dittatura del proletariato non ha scritto niente, e anzi, quando degli accenni, ma non insomma, lei vedeva il movimento delle masse, la stata generale politico, la rivoluzione russa del 5, nella quale la rivoluzione russa del 5 ovviamente non si poneva la dittatura del proletariato perché era considerata rivoluzione borghese. Tant'è vero che quando la rivoluzione russa produsse la dittatura del proletariato, Rosa Luxemburg contrapponeva a questa dittatura del proletariato che la rifiutava perché in quel cuore, sicura che fandola nell'insieme tra la società o nella forma leninista, cioè nella forma della protezione degli altri partiti socialisti dello scioglimento dell'assemblea costituente, contrapponeva ancora questa precisa azione di Lenin, è stata la circostanza, vuole anche dovuta a un pensiero posteriore, ma comunque che a lei sembrava nuovo, pur se si conoscesse Lenin, ne avesse criticato il centralismo dal 1903, insomma le sembrava nuovo, contrapponeva ancora l'esempio della rivoluzione francese, diceva perché togliere l'assemblea costituente, la rivoluzione francese dimostra paura che alla conseguenza segue la convenzione, e la convenzione può essere curata, cioè non è giusto, non è sbagliato costringere la rivoluzione nel letto di proposte di una dittatura di partito, mentre la dittatura del proletariato può essere esercitata nelle forme della convenzione, cioè era ancora lì nel 93. Che agiva anche su un cervello, ma un cervello politico, perché Rosa Luxemburg era anche una grande dirigente politica, non in Germania, ma nel Partito Democratico polacco, dove aveva il suo compagno che era anche un grande formatore, Jovice. Insomma, non avevano mai considerato questi problemi. Veramente in questo Lenin era il solo a considerare che il fatto del crollo automatico del capitalismo non era mai il crollo del capitalismo, cioè non era un fatto automatico, egli credeva al crollo ma non automatico, mentre per tutti gli altri crollo ed automatismo del crollo erano sinonimi, lei non distingueva, ci può essere il crollo ma non è automatico, ci vuole poi l'intervento cosciente volontaristico dall'alto per così dire, perché questo crollo diventa definitivo, quindi il problema della dittatura, anche non del proletariato, prima di arrivare alla dittatura del proletariato, la dittatura democratica degli operai e dei contadini. Cioè, anche nella sinistra marxista della seconda internazionale, questo problema non c'era, e anche in Italia, in realtà, il problema è posto da Bonomi, cioè dall'estrema destra del partito socialista, mentre persino due anni non aiutava. Che gli sembrava che lo portasse proprio sul colonialismo in Italia. Se posso, chiedo scusa per questo, se ancora una volta dirò qualche cosa, magari mi tornerò poi in altre occasioni, però ecco, volevo fare solo questa osservazione perché è legata al problema del programma di Ente. Mi pare cioè che proprio una critica particolare di Kautsky alla revisione del programma di Ente fosse proprio il fatto che fosse cancellata, ora io non so esattamente in quale forma, purtroppo perché non ho potuto leggere questo programma, ma che fosse cancellato l'aspetto soggettivo della lotta di classe, della coscienza di classe, all'interno del programma, e immagino si riferisca al ruolo del partito. Per questo abbiamo parlato del rapporto tra partito e sindacato, che porta a una sottovalutazione del ruolo del partito. Ecco, ma è interessante una cosa, ecco, che primo che questo problema soggettività oggettività della rivoluzione si ponga da verificare si ponga nella revisione del programma di Erso per un rapporto rovesciato rispetto a quello da destra e sinistra, cioè qui è la sinistra che parla di soggettività e della destra che parla di lavoro nelle circostanze di Erso, ecco, cioè 1891, quando siamo molto lontani ancora dal problema della collaborazione governativa nel 1891. Parlavo di anche 1900. Neanche ancora Hempel si lontane. Questo problema comincia dopo il 1900. No, Hempel è 89, questa è la revisione. Ma anche la revisione di quando il 1901 non troppo lontano. Il suffragio universale introdotto in Austria nel 6, e quindi il problema è ancora lontano. Sono ancora problemi molto accademici, la parte politica non può ancora corrispondere. A Erfurt poi giocarono, come lei ricorda, da quello che successe alle critiche di Engels, giocarono problemi veramente di censura. Perché si temeva che una frase o un'altra potesse scattare di nuovo le leggi eccezionali che erano state abolite solo l'anno prima. Questo non tanto per la struttura del proletariato, che era lontanissima, ma semplicemente per la Repubblica Democratica, che era pericolosa in Germania rivendicare. La dottor Steyer, a fanno di nessuno. Io vorrei solo aggiungere due cose riguardanti l'Italia. Dunque, la socialdemocrazia austriaca comprendeva territori italiani, ma di questo, quando ha parlato, di Trentino, dove si siamo ospiti, perché ne parlerà il professor Agnelli nella sua relazione sul partito di Stato. Parlerà proprio su richiesto del professor Bandusca, anche del socialismo trentino, quindi fatissimo, ma non cromatissimo, che è un aspetto importante. E poi lui ci sarebbe da vedere, ma se non abbiamo il tempo, i rapporti tra il partito socialdemocratico austriaco e il partito socialista italiano, sui quali sono stati vari lavori, in particolare di Monteleone. Io voglio soltanto dire che per esempio il processo di Friedrich Adler, la decisione del contesto, ebbe una notevole eco in Italia la sua autodifesa fu pubblicata in opuscolo dalle edizioni Avanti ed ebbe una grande diffusione, perché era considerato, rafforzava l'atteggiamento del partito socialista italiano e si opponeva alla guerra. Poi invece, dopo la guerra, Otto Bauer fallì come ha detto il professor Valuta, un comunista degli esteri, in quanto propugnava l'unione con la Germania, ma fallì anche perché voleva arrivare all'unione con la Germania attraverso l'accordo con l'Italia, e gli pensava che di tutte le nazioni dell'intesa l'Italia avesse il governo più democratico. Per giunta l'Italia e l'Austria avevano dei problemi comuni, in quel momento li contrapponevano il problema dell'Alto Adige, ma che avrebbero potuto anche unirli, soltanto il governo italiano, che era ancora quello di Salandro e di Sonnino, alle avanti di Otto Bauer rispose negativamente, e questo contribuì alla, mentre Renner, che prese la sua successione, anche sull'Italia si orientò sulla Francia. Ma nello stesso tempo cercò anche con l'Italia in quel periodo per il Birmingham. Devo dire soltanto su questo, naturalmente non ho potuto soffermare, solo accennato quando ho parlato dell'atteggiamento della Arbeiterzeit in occasione del processo di Battisti, che è stato messo in rilievo anche dal Gatter nel suo libro che è stato adesso tradotto in Italia, sulle relazioni fra socialdemocrazia austriaca e socialismo italiano. Io ho sperato che un mio allievo facesse dei lavori, le ho procurato, lui è stato un anno a Roma, è venuto credo anche a Schmelar, si chiama, è stato credo anche da lei, no? Ha detto che voleva andarci, ma poi è stato Monteleone. Credo che sia stato da Monteleone, poi è stato preso nell'amministrazione del Birmingham, della stampa del partito, eccetera, e così non ha, fino adesso non è venuto fuori niente, ma io spero, lui mi aveva promesso che avrebbe fatto un lavoro. E che ha detto che ha trovato anche delle cose interessanti, è stato un anno a Roma, poi anche città. Purtroppo ho perso il contatto con lui sta a Eisenstadt e pare che non si occupi troppo più di queste cose. Naturalmente ci sarebbe, ma tutto questo parla poi la relazione Otto Bauer, Pitoni, con Battisti, no, ma Pitoni di Trieste, Trieste, che poi è venuto, Pitoni che è poi venuto anche a Vienna, è stato molto tempo, l'atteggiamento dei triestini che erano per la conservazione dello Stato plurinazionale, interessante, che qui c'è la differenza, no, tra i trentini che erano per la dissoluzione dell'Austria, mentre i triestini erano per la conservazione. Vorrei ancora aggiungere una cosa dei trentini, mi sono venuto in mente. Il professor Bandusca ha sottolineato qui l'importanza della Vienna rossa tra le due guerre mondiali. Io volevo aggiungere, perché è rimasta nella penna, che Vienna godeva di un'autonomia quale nessun comune italiano godeva e gode anche oggi, cioè il maggior autonomismo che c'era già nell'impero ungarico delle città. Città e che molto si è accentuato nella Repubblica Austriaca anche oggi, perché Vienna contemporaneamente era uno Stato, cioè come diremmo oggi una regione, poneva le proprie forze di polizia, per esempio, rendeva possibili queste cose, e questo in misura minore, ma vale anche per la Germania, che è una, come dicevo, la seconda di differenza tra il movimento operaio e in generale la vita politica in Italia e la Germania e l'Austria, che lì le autonomie locali e comunali e regionali erano molto più pronunciate. In Italia non esistevano addirittura le regioni e le autonomie comunali erano continuamente alla mercé di prefetti, che era la sua cosa fino a non molti anni or sono. Noi giustamente mettiamo in rilievo la maggior democratizzazione dell'Italia per il fatto che aveva un regime parlamentare. Nell'Austria, nella Germania aveva un regime parlamentare, un regime costituzionale, il governo dipendeva dall'imperatore. Però le amministrazioni locali godevano di autonomie democratiche maggiori in questi due paesi tedeschi che non in Italia. Grazie. Andre Frallo o da Enwende Kritik. Ringraziamo di nuovo il professor Vandruzzi. Io ringrazio tutti gli intervenuti. Domani continuiamo. Domani col professor Manaconda. Delle volte certi un nome non mi viene. Anche a me, io ti metto il cielo. Mi è successo delle amicizie con l'intuito. L'anno scorso una volta mi è successo che non mi è venuto il nome di Puccini. Eravamo in come si chiama quello che ha scritto? Scusa, posso parlare di tal consegnato? Tutti devono consegnare.